Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Gli dei di Olimpia e dello sport ci chiedono oggi di rendere onore a una grande bandiera dello sport e soprattutto del calcio mondiale. Luis Suarez, il grande campione spagnolo, trascinatore prima del Barcellona, poi della grande Inter di Elenio Herrera e anche della nazionale iberica, campione d'Europa del 1964. L'occasione sono gli 80 anni di Luisito, celebrati proprio quest'anno, e la contestuale uscita di un bel libro intitolato Luis Suarez, l'architetto, di cui parleremo nella seconda parte di questa puntata. Trionfi, scudetti, coppe dei campioni intercontinentali, davvero ricchissima la bacheca di Luis Suarez. Oggi vogliamo rivivere, anche con la sua testimonianza, il suo più grande trionfo con la maglia della nazionale, quel campionato europeo ospitato proprio dalla Spagna nel 1964, che è rimasto a lungo l'unico alloro delle Furie Rosse prima dell'esplosione della generazione che ha dominato il calcio mondiale nell'ultimo decennio. Stadio Santiago Bernabéu di Madrid, 21 giugno 1964. Spagna e Unione Sovietica, campione in carica, si affrontano nella finalissima della seconda edizione del Campionato d'Europa. In tribuna d'onore siede Francisco Franco, il dittatore iberico che conta sulla vittoria delle Furie Rosse per dimostrare la superiorità anche sportiva del fascismo sul comunismo. La pressione, insomma, sui ragazzi allenati da Villalonga non manca di certo, spiega Suarez. C'era moltissima attesa, perché giocando in casa queste competizioni tutti aspettano sempre che uno vinca. Siccome poi in quegli anni lì erano anni dove il Madrid continuava a vincere come club e il Barcellona pure, allora è naturale che si aspettava tanto di noi. Era un po' di attesa, però allo stesso tempo avevamo un allenatore che ci incuteva molta tranquillità, era molto bravo e allora non ci ha fatto pesare niente. Penso che sia stato anche lui un uomo determinante. Al di là però dell'orientamento politico, il calcio dell'Europa dell'Est esprimeva proprio in quegli anni talenti di indubbio valore, ricorda lo stesso Luisito. Era un buon calcio, era un calcio naturalmente forse un po' più avanti nell'aspetto fisico di noi, però era anche un buon calcio tecnicamente parlando, era un calcio penso completo, era molto competitivo in quegli anni lì. Su tutti, proprio il leggendario portiere dell'Unione Sovietica e della Dinamo Mosca, Lev Yashin, che appena l'anno prima, unico estremo difensore della storia, aveva vinto il prestigioso pallone d'oro. Sia in quello che nel precedente campionato europeo ha fatto sempre molto bene, era un grandissimo portiere, un portiere che faceva soprattutto della tranquillità, del piazzamento il suo pezzo migliore, diciamo. Poi c'aveva questa mole, questo vestirsi sempre tutto di nero, che forse allora per noi era un po' così, no? Incuteva un po' di rispetto, va. Gli iberici in semifinale hanno superato per 2-1 ai supplementari l'Ungheria, mentre i sovietici hanno liquidato la Danimarca con un netto 3-0. Al fischio dell'arbitro inglese Holland, subito la finalissima si accende e Suarez è subito protagonista. Luis Suarez intenta profondizzare, però corta Russia. Russia in profondità. Recupera Spagna. Con il ballon la Petra. La Petra para Fusté. Fusté hacia adentro. Corta los centrales rusos. Rusia con la pelota. Ed è proprio la stella interista a dare là, al sesto minuto, all'azione che porta in vantaggio gli iberici, siglato da Pereda. Han transcurrido los primeros cinco minutos. Atención, el gol español va a llegar. Suárez avanza por el lado derecho. Centra. Falla el corte, el defensa Sustikov, entra Pereda y culmina el tanto. ¡Gol! Júbilo en el público, mientras Yashin abrumado sigue en el suelo dentro de su propia meta. Ma nemmeno il tempo di far festa, che arriva il pareggio dei sovietici, firmato da Kuzhainov. Per la Spagna c'è ancora da soffrire, e così sarà fino all'85esimo. Se va a poner el balón en movimiento, lo va a recibir Amancio, lo para con el pecho, lo echa al suelo, se ve obligado a replegar. Y lo va a recibir Pereda, pero ante el despeje de Aniquín lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso, ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! ¡Remate de Marcelino! ¡Marcelino! Recogiendo el centro de Pereda, constituido de extremo, Marcelino. Marcelino, señores oyentes, impresionante remate de cabeza, llevaba la pelota Pereda, ha centrado media altura, extraordinariamente oportuno y perpendicular al poste izquierdo, Marcelino ha metido la cabeza y ha conseguido de esta manera el segundo tanto para España. Así, a los 38 minutos de juego, Marcelino ha logrado desnivelar la balanza a nuestro favor. Extraordinario remate de cabeza a centro, durísimo, de Pereira, a media altura. Il colpo di testa di Marcelino batte imparabilmente Yashin. Così Suarez ricorda quel gol. Mi ricordo perfettamente, io ho allungato un pallone sulla destra a Pereira, che era la seconda punta, ma si era smarcato sulla destra. Lui è andato sul fondo, ha fatto un cross, e questo con una torsione perché la palla è venuta un po' bassa, non era così un cross alto. Era un ragazzo che di testa era molto bravo e l'ha girata molto bene in rete. Sì. Qualche responsabilità da parte del grande portiere? Beh, ancora oggi ci si interroga, ma Luisito assolve il numero uno. Era abbastanza vicino perché era fra l'area del portiere e l'altra era più o meno all'altezza del rigore. Penso che non poteva fare tanto, perché nei colpi di testa finché non parte la palla, non sai, un portiere non sa bene dove va, non si sa regolare come coi piedi, capisci? Penso che abbia fatto un gol in acrobazia molto bello questo ragazzo qua. La Spagna diventa così per la prima volta nella sua storia campione d'Europa, un trionfo firmato anche dalle magie di Luis Suarez. Beh, è davvero bello rivivere insieme questa grande pagina della storia del calcio e della carriera di Suarez. Qualche istante di pausa ora, poi vi aspetto ancora ad Olimpia per parlare ancora del grande Luisito. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. L'architetto, direi che appellativo che calza alla precisione per Luis Suarez, grande genio della grande Inter, forse il più grande di quella grande Inter, ma classifiche sempre impossibili da fare. Quel che è certo è che l'architetto è il titolo del libro che Marco Pedrazzini ha dedicato proprio a Luis Suarez in occasione dei suoi 80 anni, editato da Gemini Grafica Editrice. E Marco Pedrazzini è qui oggi ospite di Olimpia. Benvenuto Marco a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario, saluto tutti i radioascoltatori. Allora Marco, l'architetto perché Luis Suarez era il piede, ma anche per alcuni aspetti anche il cuore tecnico di quella grande Inter, no? Esatto, era il cervello. L'Inter ha iniziato a vincere con lui, è sbarcato a Milano nel 1961, Herrera aveva già bucato, diciamo così, una stagione nerazzurra e lui è stato il giocatore che ha dato la svolta tecnica, mentale, perché ha portato la mentalità vincente del Barcellona a Milano, e l'Inter è riuscita a fare quel salto di qualità che tutti i tifosi dell'Inter volevano, visto che non vinceva lo scudetto dal 1954. Ecco, dal punto di vista tecnico, che giocatore era Suarez? Lui ha cambiato ruolo, perché a Barcellona giocava come appoggio alle punte, sempre sul centro-sinistra, anche se lui giocava coi due piedi. Quando è arrivato a Milano, Herrera gli ha chiesto un compito diverso, quindi l'ha messo proprio a centrocampo. Lui arretrava anche molto e lanciava o Corso o Jair quando è arrivato nel 62, quindi era un Inter veramente fenomenale, perché lui riusciva a far ripartire la squadra, gestiva il pallone quando la squadra era in difficoltà. E c'è da ricordare che lui si è sacrificato anche per quell'Inter, perché la sua media gol a Barcellona era molto alta e a Milano praticamente ha iniziato a segnare con il contagocce, perché il suo ruolo era cambiato, quindi aveva una gestione diversa della partita. Eh sì, quello che sanno fare i grandi campioni, come sentite, voi non li vedete, ma gli occhi di Marco Pedrazzini brillano, perché parla della sua Inter a cui ha già dedicato tanti volumi, me ne ricordo uno tra l'altro splendido su Meazza, ma anche tanti altri. Beh, insomma, diciamo che nessuno è perfetto dal mio punto di vista. Ma accettiamo, insomma, questa battuta. Caro Marco, al di là di tutto, veramente nell'architetto, in questo testo ci sono tantissimi particolari, statistiche, ricostruisci la carriera di Suarez fino all'ultimo dettaglio. Ecco, c'è un'immagine, ti chiedo prima, un'immagine del periodo barcellonese di Suarez che in qualche modo simboleggia la sua carriera? carriera fino a quel punto, perché e che carriera, sarebbe già bastata quella per farne uno dei più esatto. grandi. Sì, un'immagine potrebbe essere lui che trionfa a Madrid con il Barcellona segnando due gol, è un'immagine forte perché ricordiamoci che quello era un Real Madrid non grande ma grandissimo, perché in quel periodo vinse 5 Coppe dei Campioni consecutive. Il Barcellona con Suarez, con Herrera in panchina, riuscì a scardinare questa forza. Era una forza non solo calcistica ma anche politica ed economica, perché Real Madrid era la squadra del generale Franco, quindi diciamo che aveva un appoggio incondizionato del paese. E il Barcellona, immerso nella sua Catalogna rivoluzionaria, era quella spinta al nuovo, quella spinta al cambiamento che è riuscito a materializzarsi con Suarez, con Kubala, con grandissimi giocatori che hanno spinto Barcellona fuori dal, diciamo, dalla non dico mediocrità, ma dalla normalità. È diventata una grande squadra proprio alla fine degli anni 50. Emblema del Barcellona, capace di vincere anche con la nazionale spagnola. Ecco, visto che questa coesistenza dell'anima madridista e catalana nelle Furie Rosse è sempre stata complicata, e abbiamo anche visto quando si è risolta che guai che ci ha creato, perché hanno vinto tutto. Ecco, allora Suarez in quella maglia della nazionale come ci stava, anche dal punto di vista diciamo politico? Ci stava bene, perché l'allenatore, le basi del grande campionato europeo del 64 sono state gettate da Herrera a fine anni 60. C'è stato un passaggio vuoto nel 1960, perché la Spagna di Franco rinunciò alla partita ai quarti di finale contro l'URSS per una questione proprio meramente politica, e quindi abbandonarono la contesa europea. Si presero la rivincita 4 anni dopo. Però ricordiamo che quell'asse Madrid-Barcellona ricostruito in maglia rosso Spagna portò alla prima vittoria, e Suarez, credo che sia uno dei pochissimi calciatori al mondo, fu campione europeo nello stesso anno, perché vinse la Coppa dei Campioni con l'Inter a Vienna nel 64 a fine maggio, e un mese e mezzo dopo diventò campione europeo con la maglia della Spagna, quindi diciamo la stagione perfetta per lui. Ti chiedo ancora invece, per quanto riguarda il suo periodo interista, altrettanto se non più glorioso addirittura, perché arrivò quella Coppa Campioni che invece col Barcellona era sfuggita in finale contro il Benfica. Ecco, qual è l'istantanea che sopravvive anche attraverso le pagine del tuo libro? Proprio gli incontri di Coppa dei Campioni, perché la mentalità di Suarez era tale che fece fare alla squadra un salto enorme di qualità. Mazzola ricorda, io lo scrivo in questo libro, un episodio, questa volta in campionato, non in Coppa dei Campioni. L'Inter vinceva 3-1 in casa con il Palermo, mancavano 10 minuti alla fine, quindi partita in ghiacciaia. Suarez lancia Mazzola sulla sinistra. Sandrino si ferma perché giudica il lancio troppo lungo, si gira e vede Suarez che lo manda a quel paese. Questa era la mentalità dello spagnolo che portò all'Inter. Attenzione, perché il mentore stava in panchina, perché Herrera era proprio il personaggio che ha fatto fare il salto insieme a Suarez, che ha portato l'Inter a diventare la grande Inter. Senti, le grandi squadre quando vincono sembrano fatte solamente da amici, no? Da amiconi nello spogliatoio, grandi abbracci, eccetera, eccetera. Era così anche in quell'Inter, oppure? Suarez lo confessa, dice: noi fuori non eravamo tutti amici, potevamo sopportarci, alcuni si sopportavano, altri erano amici, altri potevano essere tra virgolette nemici, ma in campo eravamo di ferro. Nel momento che si usciva dalla scaletta degli spogliatoi e si iniziava a giocare, l'Inter era compatta, aveva un asse che partiva da Sarti, la difesa di ferro con Picchi, Facchetti, arrivava Suarez e davanti aveva Corso e Mazzola, che effettivamente facevano, non dico quello che volevano, ma quasi. Ricordiamoci che erano anni comunque non facili dal punto di vista calcistico, perché c'era una Juventus magari un po' altalenante, però c'era un Bologna molto forte, che poi nel 64 vinse lo scudetto appunto contro l'Inter nello spareggio, e un Milan che vinse per primo la Coppa dei Campioni, ahimè, però con Rocco fu un grandissimo Milan che riusciva a combattere con l'Inter, quindi diciamo era uno scatto diverso calcisticamente parlando rispetto ad oggi. Beh, bello questo sano campanilismo che certo. Emerge da questa franca chiacchierata tra tifosi di sponde diverse. Marco Petrazzini, un'ultima domanda: qual è l'eredità che Luis Suarez ha lasciato come calciatore nel calcio italiano e mondiale? Lui ha sempre detto che il calciatore in cui si è rivisto è Pirlo, Andrea Pirlo, un giocatore a tutto campo che aveva piede, forse Suarez aveva un maggior contrasto, aveva più fisicità di Pirlo, però per dire Suarez, che il giocatore, che il Suarez di oggi è Pirlo, anche se adesso diciamo non gioca più in un campionato di altissimo livello, però ha fatto stagioni indimenticabili, vuol dire che un'eredità l'ha lasciata. Lui si lamenta ancora oggi dei centrocampisti troppo lenti o troppo fermi sul cerchio di centrocampo, quindi un giocatore a tutto campo come era lui, e a parte Pirlo che praticamente è in America, non c'è più, credo. Beh, allora vale la pena aspettare l'erede di Pirlo, ma anche l'erede di Luis Suarez. Tutto quello che non abbiamo detto su Luis Suarez in questa bella chiacchierata lo trovate nell'Architetto Luis Suarez, edito da Gemini Grafica Editrice, grazie alla penna di Marco Pedrazzini, oggi ospite di Olimpia. Grazie Marco per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per avermi invitato. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.